Ogni volta che accendo la radio, io ascolto Meassa Rosciani. Ogni volta che accendo la radio, mi sintonizzo con due di denari. Perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. No, Filippo non è d'accordo perché lui è un grande sostenitore degli anni Ottanta. E invece qui siamo negli anni 90, cara Deborah. Cosa facevi tu nel 1996? Io nel 1996 mi sono anche un po' arrotolato la lingua per dirlo, purtroppo ero già stufo di lavorare, come si dice, e questo denuncia anche la mia età avanzata. Io stavo preparando le valigie, caro mio, perché l'anno successivo mi sarei trasferita a Milano. Oh, brava, ottimo, ottima iniziativa. Però ti voglio dire, abbiamo tutte canzoni del 1996, quest'oggi a costellare la nostra puntata. Come mai questo tuffo nel passato? Una scelta stilistica giustificata dal tema che andremo ad affrontare nella seconda parte del nostro programma. Sentiamo il salto, il volo pindarico che abbiamo fatto quest'oggi. Allora, dobbiamo parlare di riscatto del corso di laurea, degli anni del corso di laurea. Come sapete, è una facoltà che è stata introdotta in modo agevolato, quindi il cosiddetto riscatto light, qualche volta l'abbiamo chiamato, ma solo per gli anni post 1996, anni di corso di laurea post 96. Ma tutti in realtà, quelli che hanno studiato, insomma, a cavallo di questo periodo si chiedevano: e per quale motivo io devo rimanere indietro? Perché non mi è data questa opportunità? Allora l'INPS, in un messaggio molto recente, ha detto: vabbè, ma se voi optate per la pensione tutta liquidata e calcolata col metodo contributivo, quindi per capirci, chi ha un po' di anni nel retributivo, che è l'altro metodo, se va tutto nel contributivo si abbassa un po' l'assegno, tanto per dirla così, pane e salame. Ebbene, l'INPS ha detto: se voi optate tutto per il contributivo, potreste anche riscattare anni precedenti al 96 nella modalità light. Questo ovviamente ha giustamente scatenato molto interesse e anche diverse perplessità, dubbi applicativi, ma allora quale in questo caso, in quest'altro, eccetera. Allora noi abbiamo detto: bene, convochiamo un esperto di valore mondiale. Avremo con noi Antonello Orlando, che è la voce nota agli ascoltatori proprio su questo tema. Nella seconda parte del programma daremo risposta il più possibile ai vostri quesiti sulla materia del riscatto agevolato del corso di laurea. 800 24 00 24, iniziate già se volete a prenotare le vostre domande in diretta sull'argomento. A proposito di temi di valore mondiale, caro mio, speriamo che quello di cui vogliamo parlare tra un secondo non diventi una vera pandemia, perché qua le preoccupazioni si alzano ogni momento di più. Dobbiamo occuparci anche noi un pochino di cronaca questa mattina legata al coronavirus. Sentiamo. Ta-na-na-na, amore, i soldi, ta-na-na-na-na-na. E allora, 4.500 contagi, 106 vittime, le cifre che descrivono quello che sta succedendo in queste giornate appunto in Asia, con epicentro appunto la Cina, sono delle cifre piuttosto preoccupanti. Come sapete, ieri ad alzare ancora la soglia di allarme è stata l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha definito elevato il rischio globale derivante appunto dal coronavirus. Noi non ci soffermeremo naturalmente in questo nostro programma, in questa prima parte, su quello che sta accadendo dal punto di vista clinico, medico, scientifico e di contagio, ma ci occuperemo molto banalmente di quello che capita agli italiani che magari lo hanno fatto da settimane, da mesi, sarebbero dovuti partire per queste località e adesso giustamente vogliono rimettere in discussione il loro spostamento. Peraltro i cittadini cinesi sono stati invitati ad evitare i viaggi all'estero per garantire salute e sicurezza di cinesi e stranieri. Questa è stata stato il messaggio della National Immigration Administration cinese, secondo cui la riduzione dei movimenti transfrontalieri può aiutare a prevenire e controllare la diffusione di questa polmonite, quindi è meglio evitare viaggi all'estero non necessari, ma chiaramente oltre al flusso di chi dalla Cina vuole uscire c'è anche invece tutto il tema di chi sarebbe dovuto entrare in queste zone per ragioni di lavoro, per ragioni di turismo, per tanti motivi. Allora, tutte le organizzazioni di categoria in Italia stanno monitorando la situazione e noi questa mattina ne abbiamo naturalmente convocata una. Mauro, vuoi fare gli onori di casa? Ma certamente, anche perché si tratta di una signora. Allora diamo il benvenuto a Due di Denari, a Ivana Jelnic, che è presidente nazionale di FIAVET. Buongiorno, grazie anche della cortesia nonostante il nostro poco preavviso. Buongiorno dottoressa. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, FIAVET, come... ricordiamolo, Mauro, è la Federazione Brava. Italiana delle Agenzie di Viaggio e delle Imprese del Turismo. Prego. Giusta e doverosa precisazione. E quello che vogliamo sapere è quello che chiedeva Deborah un istante fa, cioè ammettiamo che io abbia prenotato più di un viaggio o un viaggio già da tempo, in vista di questa situazione lo annullo, ho così la possibilità di vedermi rimborsato qualcosa oppure no, è una mia scelta perché non siamo ancora in una situazione dichiarata di pandemia e speriamo di non arrivarci mai, aggiungo esatto. Io. Cosa ne dice Presidente? Allora, in realtà questa situazione ovviamente dobbiamo fare attenzione ed essere più chiari possibili, quindi per non indurre in confusione chiaramente i viaggiatori e gli utenti. Allora, per quanto riguarda la Cina, in questo momento le partenze del prossimo futuro immediato, quindi le prossime settimane, sono equiparabili, questa situazione è equiparabile a una causa di forza maggiore, quindi a un evento imprevedibile che di fatto dà il diritto di poter avere intanto un cambio di destinazione, quindi non perdere la possibilità comunque di fare il proprio viaggio, ma di poter scegliere una destinazione diversa e alternativa. I tour operator possono mettere a disposizione quindi delle alternative di pari valore anche da un punto di vista economico. Sì. Per quanto riguarda invece se si decide di non partire e di non voler null'altro in alternativa, si ha diritto a ricevere il rimborso del viaggio prenotato. Questo è valido per le partenze delle prossime settimane, per intenderci, perché se io ho prenotato una settimana fa per un viaggio fra sei mesi, certo, otto al momento mesi, non ha senso. Al momento non c'è motivo. Esatto, cioè non è prevedibile se la situazione potrebbe rientrare oppure no. Di conseguenza, se dovesse rientrare la situazione e normalizzarsi, chiaramente quel viaggio poi è prenotato regolarmente, i servizi sono acquistati e quindi deve essere onorato da parte del consumatore. Certo. Presidente, come state in queste ore monitorando la situazione, nel senso che tipo di iniziative avete così suggerito di intraprendere alle agenzie vostre associate, soprattutto quali sono le domande che arrivano da eventuali appunto persone che avevano intenzione di spostarsi verso queste zone a breve? Allora, chiaramente l'attenzione è tanta. Noi stiamo ricevendo sollecitazioni e input molto diversi. Stiamo per il momento facendo un monitoraggio molto attento, praticamente in tempo reale, soprattutto con quelli che sono, come dire, non solo gli organi di stampa, ma sia gli operatori cinesi, ma soprattutto anche le autorità governative. E quindi siamo in stretto contatto con l'ambasciata e quant'altro, proprio per avere informazioni più precise e più dettagliate possibili. Questo è fondamentale per riuscire poi a dare delle indicazioni. E in effetti da un paio di giorni il governo cinese ha confermato il blocco dei tour organizzati, quindi noi abbiamo dato comunicazione ovviamente a tutti i nostri associati e non, chiaramente, di adeguarsi rispetto a questa decisione da parte del governo, anche se abbiamo notizia di comunque alcuni clienti che hanno deciso di partire lo stesso. Ecco, perché c'è un po' questo aspetto. La Cina è un paese, lo sappiamo, enorme, non è un continente di fatto. Noi ne parliamo come se fosse un paese tutto omogeneo e piccolo, ma qui parliamo di più di 1 miliardo di persone. Questi blocchi, questi casi, sono per quello che se ne sa circoscritti ad alcune zone. Quello che lei ci ha detto anche sulla annullabilità dei viaggi, eccetera, vale anche se uno aveva programmato viaggi da tutt'altra parte della Cina? Allora, per quanto riguarda la Repubblica Popolare Cinese, al momento le indicazioni che vi ho dato sono valide per tutto il territorio, anche perché già dalla settimana scorsa, appena è partito, come dire, l'allarme in maniera più diffusa, anche località non interessate direttamente come Wuhan, per esempio Shanghai, Pechino, le autorità avevano predisposto subito la chiusura dei principali monumenti. Sì. E questo fa sì che chiaramente per quello che riguarda soprattutto i turisti, e la godibilità di un viaggio, di un tour è fortemente compromessa, perché se i monumenti principali, le principali attrazioni non sono visitabili, viene da sé che anche altre località della Cina chiaramente non siano fruibili, e quindi i tour non si possono fare in realtà. Voi domenica avete, proprio lei tra l'altro ha rilasciato le dichiarazioni, anche delle indicazioni di prudenza: mettersi in viaggio solo se si è in perfetta condizione di salute, non bere acqua dalle fontane, solo da bottigliette ben sigillate, usare disinfettanti per le mani, portare sempre le medicine di uso più comune e comunque mai fai da te, perché la Cina non è il posto ideale per fare il turista fai da te. Esatto. Il fai da te in questo tipo di situazioni rischia di essere fortemente pericoloso, anche perché molto spesso chi decide di auto-organizzarsi un viaggio, una vacanza, in questo caso parliamo della Cina, ma è un concetto che vale anche per altre nazioni in giro per il mondo, magari non pensa a fare una polizza assicurativa medica, sì, quindi di carattere sanitario, oppure poi si ritrova ad avere delle problematiche, banalmente la necessità di anticipare, spostare un volo aereo o una situazione in qualche modo di emergenza o imprevista, dove in realtà ci si ritrova assolutamente da soli e si corre il rischio poi di avere delle grosse problematiche. Tra l'altro ricordando che la sanità in Cina è quasi tutta a pagamento, per cui l'assenza di una polizza sanitaria può rappresentare anche in questo caso, è un suggerimento che avete dato dottoressa Jelnic in questi giorni, l'assenza di una polizza sanitaria può rappresentare un problema. Chiaramente noi ci siamo soffermati abbastanza sulle persone che immaginiamo volessero spostarsi verso queste aree per ragioni di turismo, per ragioni di piacere. C'è poi tutto il mondo economico produttivo che invece chissà come risolverà questo momento di blocco appunto dei trasferimenti, perché sappiamo che ci sono molte aziende che hanno delocalizzato verso le aree cinesi, e quindi chiaramente un po' il sospendere momentaneamente anche questi voli per ragioni di business può per molti contesti appunto rappresentare un problema, ma magari ci arriveremo prossimamente. Dottoressa Jelnic, ci ritenga a sua disposizione se sarà il caso di dare altre informazioni agli ascoltatori nel caso nei prossimi giorni la situazione dovesse evolversi in un modo o in un altro. Noi speriamo che naturalmente sia quello assolutamente positivo. Ha altre raccomandazioni da fornire in diretta? Ci ritenga il microfono di servizio questa mattina per Fiavet. Allora, sì, ribadisco un concetto per noi fondamentale: rivolgetevi ai vostri agenti di viaggio, andate in agenzia, informatevi, non abbiate timore di chiedere spiegazioni, perché i colleghi sono sempre a vostra disposizione, a disposizione dei propri clienti, per poter gestire nella migliore delle maniere ogni situazione possa verificarsi. Noi abbiamo sul territorio oltre 8.000 agenzie di viaggio con regolare licenza, con grandi professionisti in grado di veramente supplire tante necessità che l'utente può avere. Grazie alla Presidente. Grazie a voi. Alla Presidente Viviana Jelnic, Presidente Nazionale di Fiavet, e naturalmente noi qui, Deborah, ci siamo occupati della parte, per così dire, economica del coronavirus, dell'emergenza virus in Cina. Tutte le indicazioni invece di carattere medico, sanitario, le precauzioni le potete trovare restando sintonizzati con Radio 24, perché alle 12 tutti i giorni c'è Obiettivo Salute dopo di noi, e quindi lì avete un aggiornamento costante. Peraltro sabato scorso, sì, con la dottoressa Gismondo, sì, esatto, Nicoletta Carbone ha proprio dedicato la sua puntata di Obiettivo Salute, l'intera puntata di mezz'ora, proprio al coronavirus. Se ve la siete persa, io ho messo sul Twitter il modo per rintracciarla, ma se no andate serenamente sul sito di Radio 24, www.radio24.it, e cercate tra i podcast la puntata appunto di Obiettivo Salute di sabato scorso. E adesso qualche notiziola in breve. Baila. Baila. Allora, visto che sei poeta ma anche musico, ti prego di agevolare tu questa notizia. Guarda, questo è Mambo Salentino, proprio l'entrata di Mambo Salentino, perché poi in realtà il brano va a crescere, come si sente, come si può intuire dal sottofondo. Peraltro va bene perché stiamo parlando di videoclips, perché è più di uno, sul quale l'antitrust si è un pochino irritata, impermalita per così dire. Allora, ce ne ha sempre una, povera antitrust, ogni giorno deve bacchettare qualcuno, no, e anche punire economicamente in modo salato a volte. Allora, qui cosa è successo? Tu sai, Deborah, che cos'è? Certo, tu lo sai sicuramente, il product placement. Sì, è quando tu fai il concerto con praticamente i Chapter 11 e accanto ti metti magari, che ne so, una bottiglia di passata di pomodoro che casualmente avevi lì. Esatto, oppure... perché io abitualmente durante il concerto bevo passata di pomodoro. È la prima cosa che mi è venuta in mente, dai, una birra? Ammettiamo che casualmente tu abbia una birra in mano. E casualmente proprio di quella marca lì e non di un'altra. Mm-hmm. Ecco, si chiama product placement. Succede anche nei videoclip. L'antitrust se ne è accorta e si è appunto irritata e ha aperto un procedimento. Procedimento che è stato aperto appunto nei confronti di Mambo Salentino, Bunda Bash, e con Alessandra Amoroso, e poi Senza Pensieri di Rovazzi con Bertè e la Bertè e J-Ax. Allora, questi videoclip hanno all'interno dei prodotti commerciali, ma non si dice in nessun posto del videoclip che c'è l'inserimento di prodotti commerciali. Se fate caso, in molti programmi televisivi, specialmente quelli di maggiore audience, di maggiore richiamo, c'è sempre un'avvertenza, compare un'avvertenza: in questo programma è previsto l'inserimento di prodotti commerciali. È il product placement che va dichiarato. Mm-hmm. Così non è stato per questi videoclip e l'antitrust adesso ha aperto un procedimento. Allora, senti, invece volevo richiamare l'attenzione degli ascoltatori su una notizia che era ieri sul Sole 24 Ore. Noi l'avevamo messa anche nel nostro giornale radio del risparmio, poi per ragioni di tempo non l'abbiamo data in onda, ma siccome non è scaduta la propongo oggi, perché mi fa anche comodo per anticipare il tema che affronteremo domani a Due di Denari in Dov'è il Nuovo Lavoro. Ci occuperemo dell'agente immobiliare 4.0, se vogliamo. Sì. Allora, che cosa succede? Io sono un venditore di una casa, tu sei l'acquirente, uh-huh, e per fermare, fare un compromesso appunto per eventualmente dimostrarmi il tuo interesse per l'acquisto di questa casa, può essere che mi versi una caparra. Poi la compravendita salta e io, come venditore, la caparra non voglio più ridartela indietro. È questo tema oggetto spesso di grande conflittualità appunto fra le parti che devono portare a casa una vendita e barra acquisto di un'abitazione, di un edificio, di un immobile. Ci ha messo una pezza definitiva, speriamo, la Corte d'Appello di Napoli, che ha detto: la risoluzione del contratto non legittima il venditore a trattenere la caparra confirmatoria che gli è stata versata dall'acquirente. La Corte d'Appello di Napoli appunto lo ha deciso con una sentenza del 12 dicembre dello scorso anno, respingendo l'appello proposto da un venditore il quale, a fronte della richiesta avanzata dal suo acquirente di farsi restituire le somme versate a titolo di caparra confirmatoria e di acconto in esecuzione del contratto di compravendita poi dichiarato risolto in altro giudizio, per sua colpa riteneva che la risoluzione del contratto comportasse il proprio diritto di trattenere la caparra. E no, signori miei, bisogna restituirla. La pretesa di restituzione è stata accolta dal giudice di primo grado e confermata in appello. Ci racconta tutto Augusto Cirla ieri sul Sole 24 Ore. E tra l'altro nel Quotidiano del Diritto. Io darei invece un'informazione, un'avvertenza di servizio, perché il Ministero dello Sviluppo Economico ha informato proprio che in questi giorni a diversi cittadini e operatori che sono interessati a registrare un marchio stanno arrivando richieste di pagamenti che si appoggiano su un IBAN polacco. Ecco, ovviamente queste richieste non sono altro che tentativi di truffa, di estorcere del denaro, e quindi non va assolutamente scambiato per una richiesta del Ministero dello Sviluppo Economico, nonostante i malfattori utilizzino proprio nell'intestazione il logo, l'indirizzo che però è sbagliato, non è quello giusto, e i contatti del Ministero dello Sviluppo Economico e dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Sono arrivati anche a falsificare nome e firma di un dirigente del Ministero. Richieste fraudolente, quindi attenzione, se siete interessati come operatori, come cittadini a registrare marchi, vi arriva una mail in cui vi chiedono di versare su un IBAN polacco, gettatela, non seguite, soprattutto non seguite i link, che è sempre un buon consiglio quando si riceve questo tipo di richieste. Allora, il suggerimento, se possibile, di annullare, sospendere o rinviare l'imminente viaggio in Cina, nel caso l'abbiate prenotato, non deve riguardare tutte le persone che hanno intenzione nelle prossime settimane di andare da tutt'altra parte del mondo. C'è un ascoltatore, Mauro, che ci scrive: fra 20 giorni devo andare in vacanza a New York e Toronto, se la situazione peggiora può compromettere il mio viaggio? E noi, Pierpaolo, come facciamo a saperlo? Noi ci auguriamo di no, naturalmente, e soprattutto adesso non vorrei che si scatenasse anche il panico da viaggio in senso generale. Così non deve essere, stiamo parlando di una zona molto particolare per la quale chiaramente invitiamo tutti alla cautela. Pierpaolo, fossi in lei, io andrei in vacanza in queste località, località meravigliose, senza alcun problema. Detto questo, vediamo che cosa succede fra qui a 10 giorni. In ogni caso, se lei solo per paura volesse annullare il suo viaggio, sicuramente a lei non spetta nessun tipo di indennizzo, rimborso, risarcimento e restituzione di biglietti appunto già prenotati o eventualmente prenotazioni di alberghi, hotel, eccetera, perché non sono zone problematiche quelle, assolutamente. Per cui il punto è una scelta molto personale, se si vuole fare. Ma se ho colto infatti bene il quanto ci ha spiegato la presidente FIAVET, Ivana Jelnic, la possibilità di annullare, di vedersi rimborsato o proporre un'altra destinazione riguarda la Cina, perché lì c'è stato e c'è un blocco degli spostamenti, mentre paesi che non hanno motivo di bloccare alcunché ovviamente non sono interessati da questa indicazione. È però una situazione in evoluzione veramente quotidiana, per cui sicuramente la seguiremo anche noi molto da vicino. Allora, hai visto cosa sta succedendo al centralino? Io ieri l'avevo detto che oggi avrebbero preso letteralmente fuoco. D'altra parte, il riscatto della laurea, abbiamo già in collegamento il nostro esperto di valore mondiale, io ne approfitto per salutarlo. Sì, dai. Buongiorno Antonello, buongiorno ad Antonello Orlando. Bentrovati, buongiorno. Ora, di valore mondiale non esageriamo, mi sembra veramente iniziare a diventare più rotto. È un po' riduttivo, certo. No. No, allora ti chiediamo scusa doppiamente, perché adesso dobbiamo mandare una segnalazione giunta, come al solito, per la nostra rubrica Dillo a due di denari, e poi, senza por tempo in mezzo, neanche un secondo, andremo di filato verso l'aggiornamento dei mercati finanziari, ovvero sia le borse. Dillo a due di denari. Se io con una compagnia telefonica pattuisco un contratto dove mi dicono: tu con 10 euro, 12 euro, quelli che sono, hai questo, questo, questo al mese, non vedo perché poi ti tirano via un euro perché si inventano nel corso dell'anno delle operazioni, cioè, che tu non hai accettato, perché, cioè, ci impongono costi su operazioni che noi non abbiamo accettato nel contratto, perché gli permettono alle compagnie telefoniche di fare ciò? Domanda. È sempre il solito discorso che lo Stato è forte con i deboli e deboli con i forti, perché le compagnie telefoniche girano milioni di euro e si possono permettere avvocati con i contro, e uno Stato non si metterà mai a rompergli le balle a questi qua, però con noi deboli fanno quel c***o che gli pare. Andiamoci piano con questi messaggi, eh? Siamo sempre un programma di economia. Due di denari. Com'è cominciata? Io non saprei. Io dovevo partire per la città di Canton il 15 febbraio con un volo business Emirates per lavoro. E io ho contattato la compagnia aerea e semplicemente mi rimborsano il biglietto in toto. Beh, mi sembra il minimo, insomma, che le compagnie si comportino con un po' di buonsenso in questa fase. Bene, andiamo a riscatto agevolato della laurea, perché qua molti ascoltatori bussano alla porta dei due di denari. Apriamo, dai. Sì, sì, perché adesso ci aiuterà Antonello Orlando a decifrare la cosa. Noi abbiamo per un anno circa seguito una certa interpretazione, che era quella della normativa e anche delle indicazioni operative dell'INPS, ed era sostanzialmente: potete riscattare in modo agevolato, quindi pagando meno, perché il riscatto ordinario, per così dire, è sempre possibile, pagate di più e riscattate, ma potete riscattare in modo agevolato solo gli anni dal 96 in avanti. Perché dal 96? Perché nel 96 è arrivata la riforma Dini e ha debuttato nel nostro sistema pensionistico il metodo cosiddetto contributivo. Adesso l'INPS, dottor Orlando, ha detto: ma no, in fondo vi daremmo da riscattare, vi faremmo riscattare con lo sconto, in modo light, in modo agevolato, anche gli anni pre-96, se voi però accettate di farvi tutto il calcolo della pensione col contributivo. Fin qui ho detto giusto? Come sempre, impeccabile. Sì, diciamo che l'istituto ha assecondato il trend dei saldi, forse aprendoli un po' più tardi rispetto al calendario osservato dagli esercizi commerciali in Italia, perché contrariamente, come giustamente veniva detto, rispetto alle interpretazioni fornite con le due circolari che nel 2019 si sono succedute senza dare particolari lumi a noi operatori del mercato del lavoro, che ci interrogavamo su come interpretare quel requisito che diceva che il riscatto agevolato è accessibile a chi ha studiato in periodi da valutare col metodo contributivo. Ecco, fino a qualche giorno fa l'INPS aveva continuato ad assecondare un orientamento secondo cui chi aveva studiato dopo il 95 non aveva problemi, chi aveva studiato in corso, sempre il periodo di durata legale del corso di studi, prima del 1996, era sfortunato e fuori da questi salti primaverili. E doveva, poteva riscattare solo in modo ordinario e non con lo sconto, non agevolato. Esatto, con prezzi che sono molto spesso proibitivi, per quanto temperati da una deducibilità fiscale di per sé appetitosa. E cosa è successo con la circolare numero 6 del 2020? L'istituto, con un grandissimo colpo di scema, smentisce un po' se stesso, perché adotta una lettura molto estensiva e, interpretando letteralmente la norma, ci dice: non solo coloro che hanno studiato nei periodi naturalmente di competenza del metodo contributivo, dunque dopo il 95, ma anche tutti coloro che, a valle di un arachiri pensionistico, così lo possiamo chiamare, optando per il metodo contributivo, una opzione che era stata prevista dalla legge Dini del 95, convertendo la propria natura, a questo punto, passando al contributivo, possono accedere al riscatto agevolato. Innanzitutto, direi, può essere utile capire quando questa operazione può essere fatta, e magari interroghiamoci anche sulle sue conseguenze. Esatto. Quindi, allora, perché una cosa che già non capiamo, fatichiamo a capire, ma se ho tutti gli anni pre-96, cioè ho studiato dal 91 al 95, non posso mai accedere a questo riscatto agevolato, perché non ho neanche un anno nell'era del contributivo? Allora, lasciando da parte l'ultima interpretazione, se non ci fosse l'opzione per il contributivo, se ho studiato tutto prima del 96, prima di questa interpretazione, non potevo assolutamente riscattare nemmeno un mese con l'agevolato. Invece, se ero a cavallo, facciamo conto che avevo studiato 93, 94, 95 e poi 96, 97, solo le due annualità 96 e 97 le potevo riscattare in modo agevolato. Quindi era così, a bocce ferme. Un soggetto che invece ha studiato tutto prima del 1996, ha cominciato a lavorare, diciamo così, per esempio nel 95, ha un contributo mensile, settimanale nel 95, e poi ha tutto dopo il 95, quindi è un misto però fortemente contributivo. Questo soggetto potrà optare per il metodo contributivo. A che condizioni? Deve avere in totale almeno 15 anni di contributo. Non deve avere i 18 anni di contributi al 31 dicembre 95, perché altrimenti rientra... È un retributivo. Esatto, nella fortezza inespugnabile del retributivo puro. E poi, di quei 15 che deve avere nel complesso, 5 li deve avere dopo il 95. Ok? Quindi, insomma, questi requisiti che per gli ascoltatori, per le persone che oggi si interrogano, non sono particolarmente difficili. Insomma, 15 anni di contributi per chi sta avvicinando alla pensione non sono tanti. Certo. Allora, aspetti, dottor Orlando, perché Paola da Biella aveva praticamente questo simile, quesito. Esatto, simile a questo. Quindi che abbiamo chiedo descritto. Chiedo conferma all'ascoltatrice se era questo. Il figlio laureato prima del 96, ma con lavori successivi al 96, quindi tutti i versamenti nel contributivo. È così, Paola? È così, è esattamente così. Mio figlio ha fatto gli studi precedentemente e ha iniziato a lavorare dopo il 96. Quindi lui versa come lavoratore... Tutto contributivo lui. Esatto. Allora, ritorniamo dal nostro esperto Antonello Orlando. Il figlio della signora Paola può chiedere il riscatto agevolato, quello da 5.260 euro? Ecco, diciamo che lui deve fare una capriola con doppio salto mortale, perché, come dicevamo, non a caso nell'esempio vi dicevo che il caso tipo era di un soggetto che aveva cominciato a lavorare nel 95, cioè per poter optare per il contributivo bisogna avere almeno un contributo nel metodo retributivo, quindi prima del 95. Allora, cosa potrebbe fare questo soggetto, questo il figlio dell'ascoltatrice? Potrebbe riscattare un'unica settimana con riscatto ordinario nel periodo ante 96. Quindi con i prezzi più alti, non agevolato. Però solo una settimanella, diciamo, che si prende proprio un assaggino, un bignè di riscatto ordinario, per poi, nello spazio di un secondo, tramutarsi immediatamente in un optante per il metodo contributivo, quindi sarebbe misto per giusto qualche ora di ebbrezza, opterebbe per il metodo contributivo e a quel punto gli si sbloccherebbe il riscatto agevolato per l'intero periodo di laurea residuo, quindi diciamo tutto tranne quella prima settimana già riscattata col metodo ordinario. Insomma, Antonello, io vorrei farti vedere, non posso, purtroppo in radio non si può, ma lo sguardo di Deborah, che immagino sia anche lo sguardo di molti ascoltatori, sai che cosa pensavo? Che... sono delle contorsioni, sì, effettivamente, perché bisogna avere questa contorsione, se capisco bene, dottor Orlando, è perché uno deve avere almeno un versamento nell'altro metodo, nel metodo retributivo, perché così può optare per dire no, prendo tutto al contributivo. Questo è il motivo di questa contorsione per il figlio della signora Paola. No, io ero più che altro colpita dal fatto che a fronte, ma questo vale per tantissime questioni che affrontiamo, di una regola di carattere generale che magari può essere anche molto dettagliata, molto puntuale, molto precisa, quindi difficile da interpretare e leggere, in ogni caso c'è una norma di carattere generale sotto la quale però ricadono un milione di miliardi di casi appunto particolari, quindi ognuno deve agire a seconda della propria condizione molto speciale, appunto chiaramente maturata nel corso della propria vita da studenti e professionisti e poi lavoratori. Detto questo, adesso sentiremo Igino dalla provincia di Gorizia, c'è la nostra pausa, ma io mi interrogo, Antonello, e in realtà questa domanda ce la facevamo anche con Mauro prima di partire con l'approfondimento, ma tutti quelli che, non sapendo che sarebbe arrivato questo chiarimento e questa circolare dell'INPS quest'anno, hanno già pagato lo scorso anno, hanno già scelto di fare il riscatto agevolato light e adesso magari trovano questa nuova condizione che sarebbe per loro, hanno fatto magari un'ulteriore verifica, è vantaggiosa, più conveniente, sarebbe il caso appunto anche di, che ne so, attaccare altri anni a cui hanno dovuto rinunciare nel riscatto light dell'anno scorso. Qua come ci si comporta, ma lo scopriremo credo dopo. Solo dopo il traffico. Hai qualcosa da dire in tema di soldi? Allora, dillo a Due di Denari, la nuova rubrica in cui ogni pensiero conta. Domande, opinioni, commenti a ciò che va in onda e suggerimenti per le prossime puntate. Inviaci una nota vocale al 349-238-6666 nel corso della diretta. Oppure scrivici in qualsiasi momento a duedidenari@radio24.it. Promo 24. Eolo, internet a banda ultralarga, porta connettività fino a un giga simmetrico anche alle imprese nella provincia italiana. Eolo Azienda è la connettività ultraveloce con soluzioni progettate su misura per la tua impresa, anche se si trova nei nostri comuni più piccoli. Eolo Azienda ti permetterà di navigare fino a un giga, attivare il servizio in soli 5 giorni e di ricevere sempre un servizio di assistenza immediata. Un team Eolo dedicato alla tua azienda, con una risposta telefonica garantita in 20 secondi. Per scoprire le offerte Eolo Romeo Lo Azienda, chiama il numero verde 800 939 939 oppure visita il sito azienda.eolo.it. Due di denari. Stiamo continuando la nostra carrellata di musica del 1996, The Summer is Crazy. Eh sì, ho visto, infatti, ma mi aspettavo un'altra cosa perché avevo visto un'altra segnalazione. Non importa, non voglio fare questioni perché già le domande sono tantissime. Non puntualizzare le scelte di Marco, che oggi le ha fatte molto ricercate. Allora, abbiamo Igino che ci ha chiamato dalla provincia di Gorizia e poi dobbiamo rispondere alla domanda posta da Deborah. Ma se io avevo solo due anni da riscattare, 96-97 mettiamo, e ho preso quelli e non quegli altri, e allora che faccio? Adesso mi hanno detto che invece potevo, accidenti, esatto, posso, esatto, posso cambiare in corsa? Perché, prima... perché in Italia c'è la certezza della norma, quando si dice una cosa è quella, non cambia mai, Mauro. Guarda, scrivi a Norme e Tributi e lasciami ascoltare che cosa ci vuole dire Igino. Buongiorno Igino. Buongiorno. Ci chieda. Senta, io sono un libero professionista, no? Sì. Mi sono laureato lavorando nel 95. Sì. Ho lavorato dall'81. Adesso mi hanno detto tempo fa che io non ho diritto praticamente a nessun riscatto della laurea. Volevo sapere se dopo questi questa interpretazione c'è qualche cosa, ecco. Temo di no, ma naturalmente non voglio sostituirmi, ci mancherebbe altro, ad Antonello Orlando. Se uno ha versamenti come lavoratore, io sapevo che non si può riscattare il periodo del corso di studi. Ed era una giusta sapienza, sì, sono assolutamente d'accordo. La presenza di contribuzione obbligatoria nell'estratto conto contributivo, cioè nella posizione del soggetto, inibisce la facoltà di riscattare, perché diciamo che la posizione è già coperta in quegli anni, quindi purtroppo la formula agevolata non varia le regole di base dell'istituto del riscatto. Sì, perché il senso è, Antonello, se già uno ha versamenti previdenziali non può averne anche per la parte del corso di laurea. L'unico perché il periodo caso, di tempo è lo stesso. Esatto, l'unico caso in cui invece è possibile è quando un soggetto, un lavoratore part-time, vuole integrare rispetto alla riduzione sui contributi operata chiaramente dal minore introito della paga part-time, e allora può in qualche modo integrare anche quei cosiddetti versamenti volontari di integrazione, ma è l'unico caso in cui possiamo riempire un periodo che appare già coperto, l'unico. E ci ha chiamato Deborah da Milano che vuole allora, sapere, ma se uno esatto, ha cominciato riscattando l'anno scorso, un esatto, po' e poi adesso si è accorto che poteva riscattare tutto pur nei limiti sì, della norma che conoscevamo appunto lo scorso anno, sì, e adesso? Può cambiare idea? Allora sì, direi che può cambiare questa difficoltà nella misura in cui nell'esempio che voi fate era un soggetto che aveva riscattato i due anni dopo il 95 aderendo all'interpretazione dell'INPS e non aveva riscattato in modo agevolato anche quelli precedenti. Allora se è così dovrà sicuramente optare per il metodo contributivo e a quel punto fare domanda una volta perfezionato questo adempimento per i periodi pregressi con un'unica attenzione. Se questo soggetto, un po' come il caso del figlio di cui si parlava prima, ha la peculiarità di avere studiato due anni prima del 96, due anni dopo il 95, quindi due anni di acchiesti agevolato, il soggetto non avrebbe facoltà di optare per il contributivo, perché lui se non ha lavorato prima del 96 non ha nemmeno un contributo versato. Allora è un altro di quei casi, la domanda di Deborah, in cui i due agevolati me li sono fatti senza problemi, ma per poter acquisire anche gli altri due ante 96 in modo agevolato dovrò fare il riscatto di una prima settimana con metodo ordinario, pagare, optare per il contributivo e poi riscattare il restante periodo dei due anni ante 96 in modo agevolato. Come... anche qui con contorsionismo sì, e triplo axel. Che è quello che abbiamo risposto anche all'ascoltatrice che ci aveva chiamato prima da Biella. Abbiamo, mamma mia, abbiamo bisogno di di altre precisazioni, però abbia pazienza. Sì, esatto, a tempo le prossime 4 ore. Allora, i professionisti, cioè coloro che hanno le pensioni, versano e hanno poi le pensioni erogate dalle casse professionali. Gli avvocati, i commercialisti, i ragionieri, i consulenti del lavoro, i geometri, i giornalisti, tutti costoro, mi pare, ma chiedo sempre conferma perché questo è un terreno non minato, minatissimo, tutti costoro sono esclusi dal riscatto agevolato. Assolutamente sì, il riscatto agevolato è una facoltà peculiare delle gestioni dell'INPS. Diciamo però che i suddetti liberi professionisti, ivi inclusi i lavoratori della categoria giornalistica, qualora avessero accantonato qualche contributo nell'INPS, potrebbero valutare di operare, se ne hanno i requisiti, quelli che abbiamo detto per l'opzione al contributivo, di azionare questa facoltà e, una volta acquisito il riscatto agevolato in INPS, utilizzare un altro grande evergreen che abbiamo trattato insieme, cioè il cumulo contributivo, sì, per la facoltà di sommare i contributi gratuitamente in tutte le gestioni e le casse professionali, in modo che hanno comprato low cost il riscatto agevolato in una gestione dell'INPS e poi però cumulano gratuitamente i contributi con quelli della cassa o della propria gestione, in modo che insomma il vantaggio indirettamente se lo esportano senza pagarlo troppo. Antonello, facciamo un po' due conti. Prima Mauro ha ricordato una cifra, 5.260 euro l'anno, quindi il valore del riscatto light è questo come quota annuale, complessivamente, quindi se possiamo riscattare 4 anni arriviamo a 20.000 e qualcosa. Sì, si riscatta il periodo del corso circa di studi in regola, non il fuori corso. Esattamente, ordinario, regolare. E in che modalità dobbiamo fare questo versamento? Si può fare con una modalità light pure, quindi si può rateizzare annualmente questo importo? Assolutamente, le regole sono sempre le stesse, quindi abbiamo un versamento che può essere rateizzato in un massimo dei 10 anni, sono 120 rate mensili senza l'applicazione di alcun interesse, con un piccolo particolare che se questi contributi mi servono, per esempio, sto per entrare in quota 100, ho 34 anni di contributi e 62 di età, però mi servono gli altri 4 che mi compro low cost per arrivare a 38 anni di contributi, se la pensione sta per decorrere mi devo ricordare che nelle gestioni principali come quella dei dipendenti del privato il riscatto dovrà comunque essere saldato prima della decorrenza della pensione, quindi rateizzazione sì, purché non esondi dopo la data finale di decorrenza della pensione. Molti ascoltatori ovviamente ci chiedono, ma mi conviene? Ecco, questa è però la domanda delle domande, nel senso che non c'è una risposta. Allora, questo riscatto conviene, io la butto lì, poi Antonello Orlando preciserà. È una sorta di acquisto di anni di anzianità contributiva. Conviene? Sì, potrebbe convenire perché magari poi quegli anni si riveleranno utili per ritirarsi prima, se la cosa interessa. Potrebbe non convenire ovviamente se si opta tutto per il contributivo, perché allora l'assegno andrà ad abbassarsi ancorché magari preso prima. Cosa ne dice l'esperto? Mi sembra una sintesi perfetta, la richiamo giusto di qualche ulteriore fregio. Assolutamente sì, innanzitutto dobbiamo capire se produce realmente un avvicinamento alla pensione e controbilanciare l'anticipo pensionistico al decremento sulla pensione che può arrivare anche al 40 o al 50% per sempre, perché l'opzione per il contributivo è peraltro completamente irreversibile. Allora, su questo l'accensione di una riflessione importante è riflettere. In alcuni casi il contributivo diventa il metodo obbligato per accedere alla pensione, mi riferisco all'opzione donna, e in questi casi che le donne che vogliono comunque anticipare il pensionamento, ricordiamo con 58 anni di età o 59 se autonome e 35 di contributi, con questa strada sarebbero comunque finite col metodo contributivo. Allora, quello è un caso di sicuro vantaggio. Cioè... Ed è un caso che vale la pena affrontare in una puntata tutta dedicata a questo tema, Antonello. Una puntata tutta rosa. Peraltro, posso leggere questa notizia che leggo sul Facebook? Sì. Un post di un'amica avvocato matrimonialista. News dalla Cassazione, niente assegno divorzile alla ex moglie over 50 che non ha attualmente un lavoro, nel caso in cui la stessa non provi che nel passato si era premurata fattivamente a cercarne uno. Quante volte l'abbiamo detta questa cosa? Signore mie, datevi da fare! E con questa raccomandazione, ecco, di Deborah, noi salutiamo e ringraziamo Antonello Orlando, gli chiediamo di non lasciare il paese e restare a disposizione di, ecco, due di denari. Perché nel pomeriggio arriverà un po' di posta, ho la sensazione, Antonello. Grazie. Come sempre, grazie. Grazie. Domani per parlare di agenti immobiliari, caro mio. Sono qui. A domani.